si dissolve il velo, lentamente si dissolve la realtà, mi sollevo nel volo più in alto, senza sosta ricevo il tuo anello. Baby.